Professor Mazzolini, docente presso l'Università di Brescia. Questo è il quadro delle proposte di riforma a livello normativo che ci sono in campo. Però mi verrebbe da dire, magari si può creare la legge più bella del mondo, ma se poi il lavoro non c'è, poco ce ne facciamo. Quindi volevo un suo aiuto riguardo a qualche riflessione sul sistema economico di questo paese in generale, quali aspetti di riforma si possono seguire. Grazie, buona serata. Allora, io sono un eretico, detto da toscano rompicoglioni, e oggi sono anche abbastanza furente. Perché? Perché, dico furente e poi dico perché sono un rompicoglione eretico, furente perché in questo paese è veramente difficile fare il mio mestiere e occuparsi di cose con i numeri, con i dati. Oggettivamente, oggi abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione di un Presidente del Consiglio che ha detto per l'ennesima volta, per difendersi da quella lei che si chiama Bunga Bunga, se ho capito bene, che ha detto che il problema di questo paese è psicologico. Per l'ennesima volta, l'ha già detto un'altra volta, e non è stato cacciato la prima volta, e anche oggi purtroppo è stato ripreso da moltissima stampa. Allora, capite che quando in un paese il Presidente del Consiglio e con lui tutti quelli che gli stanno intorno affronta il tema della crisi affermando che la crisi è psicologica, diventa difficile parlare seriamente, cioè l'unica cosa da fare è davvero scherzare e immaginare questo bunga bunga. Ed è il motivo perché sono davvero furente, perché purtroppo, ed è il motivo per cui invece sarò eretico quest'oggi, purtroppo, noi ormai da troppi anni parliamo di cose senza andare a fondo delle problematiche, senza, come dico io, raccontarcela giusta. Allora, con tutto il rispetto, è giustissimo parlare di mercato del lavoro, è giustissimo parlare di riforme, però con tutto il rispetto con chi se ne occupa con grande passione e a volte anche con qualche rischio, e come. Il vero problema, è una provocazione, vi ho detto, sono un eretico, è che se continuiamo a parlare di mercato del lavoro e non parliamo di mercato, non usciamo, nel senso che noi possiamo davvero immaginare delle soluzioni intelligenti, provocanti, eque, di sinistra, non penso che ci siamo mai di destra, però se non andiamo a vedere quali sono i motivi per cui in questo paese è difficile parlare di mercato e qual è il motivo per cui in questo paese è difficile parlare di competizione, di innovazione, eccetera, eccetera, è difficile poi trovare una legge che sia in grado di affrontare e risolvere questi problemi. In più, venendo a parlare a dei giovani, quindi quello che cerco di fare con i miei giovani, i miei studenti, io credo che sia importante che i giovani escano un momentino da quello che sono le forme di comunicazione alle quali purtroppo sono abituati, che sono molto parziali, è innegabile, quando sono comunicazione, perché molto spesso non riescono neanche ad avere le informazioni, per dare un quadro, per avere un quadro di quella che è la situazione di questo paese, e poi dopo parliamo anche di mercato del lavoro. Allora, primo aspetto di cui voglio parlare velocemente è questa finta crisi, crisi non c'è, crisi è finita, crisi è passata, eccetera. Allora, io vorrei che si fosse un po' onesti. Intanto la crisi c'è, è nel pieno della sua manifestazione, sono tutti dati economici, parlo dell'Italia in particolare, tutti i dati economici ci dicono che questo paese è nel pieno della sua situazione critica. Ci dicono che l'anno prossimo non sarà assolutamente migliore di quello che abbiamo passato e ci dicono anche che questa crisi, ahimè, a differenza di quello che sta succedendo in altri paesi europei, morde di più per una serie di motivi molto, molto, molto chiari, molto, espliciti. Innanzitutto morde di più perché siamo un paese, che è già partito male. E quindi è partito con alcune precondizioni di genesi. Io mi sono scritto qua gli appunti di genesi che l'hanno messo in difficoltà. È un paese senza regole, è un paese che non ha una cultura di mercato, è un paese dove si ciancia tanto di mano invisibile, ma poi in realtà è semplicemente anarchia, se non peggio. E poi perché abbiamo questa struttura, come si diceva prima, di piccole e medie imprese che dovrebbero essere l'asse portante, lo sono anche, ma per i motivi che che sappiamo difficilmente in grado di svilupparsi. Quindi la crisi c'è, e soprattutto è una crisi che non è stata affrontata. Siamo l'unico paese in Europa che è riuscito ad avere un aumento di pressione fiscale, un aumento di deficit pubblico e una diminuzione della produttività del deficit pubblico, e insieme a tutto questo non è riuscito a investire un solo euro in infrastrutture. Non è riuscito a investire un solo euro nella gestione, diciamo, più equilibrata del mercato, e quindi non sta in questo momento creando alcun presupposto per uscire dalla crisi. Quindi noi in questo momento siamo in un paese che se la racconta, che ha drenato risorse, e di più, guardate che ce ne dica il signor Tremonti, noi abbiamo aumentato la pressione fiscale per chi le paga le tasse naturalmente, e nel contempo non siamo riusciti a indirizzare le risorse drenate a sostegno di un'ipotesi di sviluppo. Non abbiamo creato alcun ammortizzatore, nel senso che anzi ne abbiamo ridotti gli ammortizzatori sociali, e abbiamo una pubblica amministrazione che è ancora più produttiva di prima. Capite che il quadro non è certamente un quadro che ci fa sperare in un superamento di una situazione critica. In più ci raccontiamo appunto che la crisi tocca alcune generazioni, è vero che tocca i giovani, guardate che però tocca anche quelli che il mercato del lavoro inizia a chiamare gli obsoleti, cioè i 45-50 anni, chiamandoli obsoleti peraltro, tocca le donne in modo strepitoso, in modo drammatico anche qui. E in più, è l'ultima cosa che vi dico sulla crisi, quello che non ci stiamo raccontando, questo a livello europeo, non soltanto italiano, è che questa non è la solita crisi, e quindi quando per esempio noi immaginiamo il dopo crisi e immaginiamo quello che poteva essere il 2000, in realtà facciamo un errore concettuale enorme. Questa è una crisi che modifica radicalmente il sistema capitalistico, perché ha messo a nudo alcuni dei limiti che avevano sostenuto l'ultima parte di quello che veniva chiamato turbo capitalismo, cioè i limiti di questa immagine supponente di chi pensava di poter sviluppare il consumo attraverso, sto semplificando, anch'io vado per Bigini, attraverso questa idea assurda della possibilità di poter produrre sempre di più attraverso una crescita della capacità tecnologica di sviluppare produttività. La crisi ci cambierà, e cambierà radicalmente il modo di essere, e quindi anche quei numeri purtroppo sono dei numeri che ormai dobbiamo dimenticare, ma non perché non dobbiamo arrivare all'occupazione, ma perché non si raggiunge attraverso il ritorno del passato il livello di occupazione a cui vorremmo raggiungere. Quindi provocando, il vero problema non è il lavoro, non è quello, il vero problema è questo paese che, e qui parlo veramente dei giovani, che forse dobbiamo iniziare a immaginare di cambiare sul serio, e dobbiamo cambiare anche per quanto riguarda il mercato, immaginando di poter chiedere a questa sinistra, oltre che a mettersi su tre posizioni sul lavoro, se ne mette in 418 su qualsiasi argomento, di immaginare di provare a ipotizzare un'idea di paese, magari unitario, ma e magari in grado di offrire qualche cosa di positivo dal punto di vista sociale e economico. Allora, vi faccio qualche esempio per capirci. La produttività, perché poi alla fine il lavoro si basa in me sulla capacità delle imprese di essere produttive. Allora, noi non siamo competitive, e come possiamo essere competitivi senza alcun investimento sull'innovazione, senza alcun investimento sulla formazione, senza alcun investimento sulla ricerca, senza alcun investimento sulle infrastrutture, senza alcuna modalità di, diciamo, sostegno a delle politiche di impresa che portino a superare questa micro struttura imprenditoriale. In più, come facciamo a immaginare di essere in grado di sviluppare produttività con la peggior pubblica amministrazione dopo la Grecia d'Europa, che è la più lenta, la più costosa, la più inefficiente che abbiamo in Europa? Parliamo di sviluppo. Come possiamo sostenere lo sviluppo economico avendo un'accoppiata genocidiale, una strepitosa evasione? E anche qui io capisco che dia fastidio alla sinistra parlare di un sistema di evasione assoluto come quello che abbiamo, perché la sinistra non è riuscita a far nulla negli anni di governo per ridurre, sì, l'ha ridotto di qualche percentuale, come ogni tanto dice Visco, ma in realtà ha mantenuto la filosofia dell'evasione, che è una filosofia diffusissima, anzi, devo dire che per certi versi l'ha anche giustificata, proprio perché entrare in quel meccanismo voleva dire alienarsi tutta una serie di possibili elettori. Dicevo, da una parte questo è il meccanismo perverso, questa evasione micidiale, e dall'altra parte questa improduttività del deficit pubblico, quindi di qualche cosa che drena risorse, ma non crea nulla. Competizione. Come possiamo competere con infrastrutture che sono ormai fatiscenti? Guardate che dal punto di vista degli indicatori economici, le nostre infrastrutture, per tutto ciò che è sostegno dell'economia, sono arretratissime in Europa, sono micidiali, nessuno investe anche per quello nel nostro paese. Con un'economia criminale che è dominante, io apro un piccolissimo inciso, con i miei studenti ho iniziato a cercare di far ragionare su un problema che sembra essere assolutamente ignorato dalla nostra politica, le mafie. Ne parlano naturalmente, ne parlano soprattutto quando bisogna parlare di Camorra e quando si deve parlare di realtà del Sud Italia. Ai miei studenti ho cercato di far vedere i numeri delle mafie a Milano, a Brescia, a Modena. Sapete che a Modena c'è un bellissimo libro di Roberto Gallullo che vi invito a leggere, che si chiama Economia Criminale. A Modena si parla, il procuratore aggiunto della Repubblica, quindi non sono discorsi da giornalisti comunisti, si parla del 40% del prodotto generato in quella zona che è in qualche modo controllato dalle mafie. A Modena, non a Locri, capite? Se andate a vedere sul mio sito, c'è un bellissimo video fatto da due giornalisti bresciani sulla mafia Brescia, che è terrificante, a Brescia, ancora una volta non sto parlando di Reggio Calabria. E guardate che è difficile fare business oggi al nord, nella Brianza, con l'economia criminale. Con un sistema finanziario che è ingessato, tutti avete letto in questi giorni le situazioni delle nostre banche, e con quella cultura dell'evasione che è diventata la cultura che permette l'evasione in quanto la considera leva competitiva. Oggi, se voi parlate con una serie di imprenditori di queste zone, giustificano l'evasione perché la ritengono l'unica soluzione per essere competitivi nel mercato, e questa cosa viene accettata ormai ed è drammatico. Dicevo, parlando ai giovani, io sono in grande difficoltà quando vedo i miei giovani che si impegnano, perché mi rendo conto che il sistema formativo che vi sta impegnando è un sistema formativo fine a se stesso. A parte qualche università, poche, la maggior parte delle università italiane non sono in grado di formare, non sono in grado di preparare persone in grado di trovare occupazione in modo adeguato quanto il sistema economico chiederebbe. E ancora lì, com'è possibile per un giovane accettare un sistema economico, un sistema diciamo di relazioni economiche che ha escluso il merito come elemento fondante? E come possiamo pensare che si voglia sostenere lo sviluppo senza che il nostro paese... Lì avete visto alcuni dati sulla diciamo, la disoccupazione diciamo sull'età non giovanile, perché sono dati anche questi interessanti, ma voi sapete che siamo l'unico paese d'Europa, a proposito di confronti internazionali, che non ha negli ultimi anni investito un euro per la formazione continua. È impensabile che una persona che inizia a lavorare a 25 anni non venga sostenuta se non attraverso i propri risparmi o qualche impresa illuminata che è in grado di destinare un po' di risorse per lo sviluppo, diciamo, della crescita di quelle che sono le competenze. E potrei andare avanti per tanto tempo. Perché vi ho detto questo? Perché in realtà il vero problema del nostro dibattito di questa sera è come è possibile immaginare di ricreare le condizioni affinché ci possa essere lavoro. Perché se è vero, come è vero, che il lavoro deve essere una componente essenziale della vita della persona, è difficile immaginare di poter generare lavoro attraverso riforme dal basso, riforme che vadano in qualche modo a garantire o assicurare o in qualche modo ammortizzare quelle che sono le problematiche del lavoro. Ecco, io credo che in questo momento, se vogliamo fare un discorso un po' prospettico, bisognerebbe avere il coraggio di partire ribaltando il concetto, cioè iniziando a chiederci: dirci come è possibile creare i presupposti affinché questo paese possa di nuovo tornare ad essere un paese capace di svilupparsi, capace di innovare, capace di interrogarsi su alcune potenzialità che questo paese ha. Io vi ho fatto qualche esempio, ne riprendo uno perché purtroppo ne parliamo tanto, ma oggettivamente io da sinistra faccio fatica a vedere qualche ipotesi concreta. Il tema dell'evasione fiscale. Allora, avete un'idea di qual è la massa economica di risorse che noi accettiamo di non drenare dal sistema produttivo italiano e che quindi non siamo in grado di indirizzare per qualsiasi progetto di innovazione? Avete idea di quante leggi finanziarie dobbiamo accumulare anno dopo anno per poter semplicemente coprire un anno di evasione in questo paese? Ecco, 10 anni, grosso modo, ci sono 10 anni finanziari per fare un anno di evasione fiscale. Allora, quel dato lì è il dato centrale. Le imprese in questo momento hanno bisogno di poter essere messe in condizioni di pagare le tasse se producono, ma anche di ricevere sostegno per sviluppare innovazione, per sviluppare competitività. Dall'altra parte, chi lavora deve essere messo in condizione di avere delle risorse per poter sviluppare competenze, per poter essere nelle condizioni di poter sviluppare attività professionale, per poter avere occasioni di professionalità, di capacità, eccetera. Tutto questo non succede. Allora, è giusto parlare di lavoro, è giusto parlare di meccanismi in grado di offrire a dei giovani delle opportunità, ma se non abbiamo il coraggio di guardare il re nudo, se non abbiamo il coraggio di parlare di un'economia che è stata lasciata all'anarchia, e prima si diceva la destra e la sinistra, la destra ha mantenuto il baluardo di questo ministro Tremonti che ha citato per anni questo signore di cui probabilmente aveva letto soltanto quattro pagine, che è Adamo Smith, la mano invisibile. Ecco, la destra in realtà non ha nessun interesse per intervenire, perché semplicemente si basa su un trend, su un'inerzia che è quella che ha permesso a questa destra di essere al governo. Dall'altra parte io credo che a noi converrebbe iniziare a ragionare un pochettino in modo più approfondito. Usando la metafora che diceva prima, un richiamo che faceva parte della mia cultura giovanile, è giusto guardare il lavoro, però guardare il lavoro è guardare il dito. Il problema è la luna, il problema è questo equilibrio di questo paese che è saltato, il problema è la necessità di chiedere alla politica di, io uso un termine, sparigliare. E per farlo, e qui chiudo, credo che sia arrivato anche il momento di guardare in faccia quelle che sono le esigenze reciproche del mondo del lavoro e del mondo dell'impresa. Lavorando molto sia con le imprese che con i rappresentanti dei lavoratori, io credo che sia arrivato adesso il momento in cui mettere da parte ideologismi, Rinaldini, vi racconto un aneddoto perché così ci capiamo, me ne ho segnato un po' di dati, però ve la racconto in modo semplice. Pochi giorni fa a me è capitato di partecipare a un dibattito dove questi grandi sindacalisti del no si confrontavano con un imprenditore, di cui vi racconto semplicemente alcuni parametri. Il primo è un imprenditore che in questo momento sta assumendo, un imprenditore che paga le tasse, un imprenditore che, pensate, per tutti i propri dipendenti che hanno acquistato la propria casa, ha sottoscritto la fideiussione al 100%. È un imprenditore che paga 10 euro in più, cioè scusate, il 10% in più i turni notturni. È un imprenditore senza incidenti, eccetera, eccetera, eccetera. È un imprenditore probabilmente che crede ancora in un modello imprenditoriale olivettiano. Dall'altra parte lo scontro era su alcuni parametri di tipo ideologico, nel quale questi signori dicevano: voi dovete permetterci di intervenire a gestire il piano industriale, dovete discutere con noi le politiche industriali della vostra azienda. Capite che un imprenditore di fronte a una richiesta di questo genere rischia di diventare, di rigidirsi, di cancellare tutte le proprie politiche di coinvolgimento e partecipazione. E qui chiudo con l'ultimo termine. Qualche mese fa, dopo l'ubriacatura dell'articolo 41, che per fortuna sembra essere scomparsa dal monitor del nostro ministro Tremonti, qualcuno a sinistra aveva riportato in auge un modello, che è un modello nel quale io credo molto, che è il modello della partecipazione, cioè il modello che prevede un sistema, diciamo, di relazioni tra mondo del lavoro mondo imprenditoriale, quindi tra capitale e lavoro, che andasse non in termini di cogestione come dice Rinaldini, ma che andasse concretamente a sviluppare delle ipotesi di collaborazione. Noi la chiamiamo in un altro modo dal punto di vista teorico, ma va bene anche il concetto di collaborazione, che vedessero insieme dei punti di equilibrio dialetticamente tra quelle che sono le esigenze del lavoro e del capitale. Ecco, io credo che in questo momento il mondo imprenditoriale e il mondo sindacale siano pronti per far questo. Probabilmente è lì la sfida. Oggi abbiamo bisogno di riconoscere che in questo paese c'è bisogno di una sfida partecipativa. Che poi io veramente sono molto contento di vedere dei giovani in una sede come questa sera, cosa che non mi succede spesso, e credo che sia quella che nasce, viene in qualche modo alimentata dalla voglia di trovarsi, di discutere e di confrontarsi. Vi garantisco, non succede spesso, quindi siete veramente encomiabili da questo punto di vista. Però raccontandocela giusta, guardando in faccia la realtà e cercando di trovare delle soluzioni che in questo momento devono essere soluzioni anche provocanti. Grazie.